get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, ciao a tutte e ben sintonizzate, quella che state ascoltando è la nostra 149esima trasmissione. In studio qui oggi siamo io, che sono Caterina, e con me c'è Pina. Appena tornata da un viaggio di lavoro è venuta apposta per essere qui con noi questa sera. Domani infatti riparte un'altra volta ancora per lavoro, però ci ha promesso che tra poco smetterà di fare la picciona viaggiatrice e ci dedicherà un po' più di tempo. Allora, ciao Vina e bentornata. Parla più vicino al microfono, sennò questa sera non ti sentono. Non si sente, non si sente il microfono di Pina, un attimo soltanto, mentre io continuo a leggere, vai a dire alle ragazze qual è. Sì, non si sente il tuo microfono, quindi se vai un attimo di là a chiedere qual è, grazie. Allora, vi stavo dicendo che questa sera vi leggeremo il contributo che ci ha inviato Deborah. A dire il vero ce lo ha inviato quest'estate e riguarda Oriana Fallaci e il suo ultimo scritto. Però purtroppo abbiamo potuto metterlo in scaletta soltanto in questa terza trasmissione dopo la pausa estiva, perché nelle due precedenti avevamo urgenza di mandare altre notizie. Quindi vedi per esempio l'iniziativa di Aisha E. Simmons e tutte le altre cose. Ci scusiamo quindi con Deborah per questo ritardo e confidiamo nella sua pazienza. Ci auguriamo inoltre che anche altre donne trovino la forza e la voglia di scriverci ciò che pensano di quanto accade al loro intorno e che abbiano il piacere, e sicuramente reciproco, di farcelo leggere qui in radio. Prova un attimo a dire qualche cosa, vediamo. Ah, il numero 3, ho sbagliato io, un attimo solo, vediamo un po'. Ecco, oh. Ciao a tutte, sono Pina. Oh, non stavo bluffando, c'era veramente. Ok, allora stavamo dicendo che ci auguriamo che anche altre donne ci mandino dei loro contributi. Oltre all'articolo di Deborah faremo una sorta di rassegna stampa andando a leggere un po' di notizie che abbiamo trovato sia sul sito internazionale della sul sito della Casa Internazionale della Donna e da altre parti, speriamo di fare in tempo. Poi ci sarà un attimo anche chiaramente dell'ottima musica di donne e, se ci riusciamo, anche un brano di musica lesbica indipendente. Dico se ci riusciamo perché il CD sta facendo un po' di bizze e non sono sicura che accetti i miei dischi. Allora, vi ricordo che potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 oppure potete inviarci un SMS al numero 338 41 46 682. Se volete contattarci al di fuori di questa fascia oraria potete farlo chiamando il mercoledì sera a partire dalle ore 21 al numero 06 6864 201. E a proposito, domani aspettiamo la ragazza che ci ha contattate mercoledì scorso e che ci ha promesso di venire, quindi a te che hai chiamato la settimana scorsa ci vediamo domani. Noi speriamo che questa prassi venga sempre allargata e che sempre più donne decidano di venire a trovarci, così sempre è bello essere in tante. Allora, vi ho abbandonato un attimo per poter mettere un CD. E dunque ci andiamo a sentire subito una canzone. Si tratta di un brano di Norah Jones. Allora, Norah Jones con il brano Don't Know Why. Till I saw the sun, I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Buonasera a tutte, vi saluto dopo tanto tempo finalmente in radio anch'io, anche se con una stanchezza atavica addosso. Questa sera mi limito quindi a leggere il contributo che Deborah da Milano ci ha inviato e che con la sua solita puntigliosità e caparbietà ha voluto stigmatizzare alcuni colpo di tosse in diretta. Mi dovete perdonare, ma probabilmente in questi giorni parlo molto, il mio lavoro mi porta a parlare molto e quindi c'è un'irritazione della gola non indifferente. Allora, dicevamo, io a sto punto passerei direttamente a leggere testualmente quello che Deborah l'11 luglio del 2004 ha sentito di scrivere rispetto al libro della Fallaci, La forza dell'irragionevolezza, l'ha intitolato il suo. 1969, quasi niente quanto la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo. 2004, la guerra non è una maledizione insita nella nostra natura, è una maledizione insita nella vita. Non ci si sottrae alla guerra, perché la guerra fa parte della vita. E le torture dei soldati americani ai detenuti iracheni, la decapitazione degli ostaggi in Iraq e i rapporti di Amnesty International sulla prigione di Guantanamo, centinaia di attentati kamikaze in Israele e i missili lanciati nella terra di Palestina. Ogni giorno mi domando quanto gli echi televisivi e giornalistici di quello che succede nel mondo modifichino la nostra coscienza e le nostre opinioni. Ma parlandone ora rischierei di cadere in una prolissa digressione, sull'effettiva libertà di informazione in Italia. Riporto allora solo due fatti e non le mie opinioni. L'interrogazione al Parlamento europeo presentata il 24 giugno di quest'anno dall'irlandese liberal democratico Pascal Mooney, intitolata «La monopolizzazione dei media elettronici e il possibile abuso di potere in Italia». E la retrocessione insieme a paesi come Bolivia e Sierra Leone dell'Italia per la prima volta da paese libero a paese parzialmente libero. Per la libertà di stampa, nel report 2004 dell'organizzazione americana Freedom House, creata 60 anni fa da Eleanor Roosevelt. Ebbene, nonostante la disinformazione costruita da tutte le parti politiche e da tutte le nazioni, sforzandomi in questi anni di ricavare le informazioni da tutti i media di comunicazione ufficiali e non ufficiali, leggendo il tuo nuovo scritto, La forza della ragione, la penso esattamente come 3 anni fa, quando dicevo da questa radio che c'erano brani del libro La rabbia e l'orgoglio che mi facevano letteralmente vomitare. Certo, ci sono delle differenze tra i due scritti. Nel primo non ti facevi remore a parlare di pancia e non tentavi di nascondere i tuoi personalismi, mentre in quest'ultimo, a partire dal titolo che hai scelto, tenti disperatamente di dare un senso logico alla tua rabbia, che, purtroppo, è rimasta intatta e legata più alla tua persona che all'umanità. E questo resta inammissibile per una persona, una donna, le cui parole vengono pubblicate in milioni di copie e purtroppo lette da altrettante persone. Non solo. Forse questo tuo ultimo scritto è ancora più pericoloso del precedente, perché qualcuno potrebbe veramente credere che quanto dici è sorretto dalla ragione e non solo dai tuoi rancori personali. Ci sono infatti alcune argomentazioni che, isolate dal contesto in cui le esponi, hanno effettivamente degli elementi di ragionevolezza. Ad esempio, hai perfettamente ragione quando dici che in Italia nella prossima generazione potrebbero esserci più musulmani che cristiani. Chi può contestare che gli italiani di nascita sono a crescita zero, mentre le coppie immigrate hanno in media 5 figli ognuno? È vero, ma mentre tu trovi come unica soluzione quella di chiudere le frontiere e dare la responsabilità della impari fertilità ai musulmani, chi è dotato di un minimo di obiettività riconosce in questo fenomeno l'enorme responsabilità che noi e solo noi italiani e italiane abbiamo sulle spalle. Una donna che mette al mondo oggi un figlio in Italia è un'eroina che combatte con i tempi incivili imposti dal suo lavoro. Diamo per assunto che abbia scelto di lavorare grazie alle grandi battaglie del femminismo o no, con l'assenza di asili nido aziendali, tra tante persone. Non solo. Forse questo ultimo tuo ultimo scritto è ancora più pericoloso del precedente, perché qualcuno potrebbe veramente credere che quanto dici è sorretto dalla ragione e non solo dai tuoi rancori personali. Ci sono infatti alcune argomentazioni che, isolate dal contesto in cui le esponi, hanno effettivamente degli elementi di ragionevolezza. Ad esempio, hai perfettamente ragione quando dici che in Italia nella prossima generazione potrebbero esserci più musulmani che cristiani. Chi può contestare che gli italiani di nascita sono a crescita zero, mentre le coppie immigrate hanno in media 5 figli ognuno? È vero, ma mentre tu trovi come unica soluzione quella di chiudere le frontiere e dare la responsabilità della impari fertilità ai musulmani, chi è dotato di un minimo di obiettività riconosce in questo fenomeno l'enorme responsabilità che noi, e solo noi italiani e italiane, abbiamo sulle spalle. Una donna che mette al mondo oggi un figlio in Italia è un'eroina che combatte con i tempi incivili imposti dal suo lavoro. Diamo per assunto che abbia scelto di lavorare grazie alle grandi battaglie del femminismo o no, con l'assenza di asili nido aziendali, con gli asili pubblici pieni come utri, con l'unica alternativa di un asilo privato a costi altissimi, con l'essere tagliata fuori da qualsiasi prospettiva di carriera e quindi in questa società di autostima futura, eccetera, eccetera. E tutto questo non è certo colpa dei musulmani, ma tu hai raggiunto il tuo scopo e infatti sei riuscita a insinuare nella mente dei più solo il terrore della conquista musulmana ottenuta tramite l'utero delle donne. Come la chiami questa se non disinformazione? Tu che sei così brava a lanciare strali contro tutto il mondo, quale condanna daresti a un giornalista diverso da te che si comporta così? Omissione? Mancata esternazione delle reali cause di un fenomeno? Inquinamento delle informazioni? Dicevo che questo secondo libro è più pericoloso del primo ai fini di una corretta informazione dei lettori e delle lettrici. Ad esempio, è molto interessante, nonché basata su fatti accertati, la ricostruzione storiografica degli arabi nell'antichità. È vero che gli arabi, declinati nelle popolazioni antiche che li rappresentavano, ovvero i mori, i turchi, i persiani, eccetera, hanno inflitto all'Europa gravi perdite umane e di patrimonio artistico e hanno dato ampia dimostrazione di crudeltà, radendo al suolo città, stuprando le donne e straziando i corpi dei soldati avversari. È vero, ma è da inquinamento delle informazioni non descrivere insieme a questi fenomeni la situazione in cui versava il mondo intero 20 secoli fa. Era un mondo in cui cristiani, induisti, musulmani, pagani e tutti gli uomini della terra si dedicavano a conquiste e a stragi atroci, facendo vivere i popoli in un continuo stato di guerra e di ignoranza. Sei veramente onesta quando induci nel lettore e nella lettrice il terrore musulmano, descrivendo con dovizia di particolari solo alcune delle atrocità del passato, quelle musulmane? Ti senti credibile quando rappresenti il desiderio di conquista dei musulmani come una loro peculiarità? È vero, è provato che le popolazioni arabe hanno avuto nei secoli il desiderio di conquistare l'Europa, ma quando parli con sdegno del tentativo arabo di creare l'Eurabia, forse dimentichi che tutti i popoli del mondo hanno e continuano ad avere, magari solo con mezzi più moderni come la globalizzazione, il desiderio di conquistare le terre degli altri popoli. L'hai scritto tu e l'abbiamo ricordato all'inizio che la guerra fa parte della vita, solo che io lo constato ogni giorno con terrore. E tu, da questo, fai discendere la giustificazione del principio della reazione cruenta a ogni manifestazione violenta, diversa dalla cultura dominante. When you say the things you say, Io direi di fare una piccolissima e brevissima pausa mettendo Tina Turner, Do What You Do. Del grande successo del tuo libro è anche dovuta alla sensazione di avere davanti una giornalista apartitica e quindi obiettiva. Ed infatti dedichi pepate paginette a tutti i partiti politici italiani, chiamando la destra fascisti neri e la sinistra fascisti rossi, dimenticando, tu che rivendichi grandi azioni partigiane nella tua famiglia, il vero significato della parola fascismo. Però la grandezza di una giornalista sta proprio nella oculata scelta delle parole. Vediamo come apri le paginette dedicate rispettivamente a Prodi e a Berlusconi. Signor Presidente della Commissione Europea, so che in Italia la chiamano mortadella e di ciò mi dolgo per la mortadella, che è uno squisito e nobile insaccato di cui andar fieri. Non certo per lei, che in me suscita disistima fin dal 1978. E su Prodi continua. Il solo udire la sua voce manierosa e melliflua mi innervosisce. Il solo guardare la sua facciona guanciuta e falsamente benigna mi rattrista, monsieur. Per Berlusconi invece inizia così. Signor Cavaliere, quello che avevo da dirle glielo dissi 2 anni fa e non intendo ripetermi. Tantomeno intendo unirmi all'antidemocratico coro, cioè al linciaggio con cui, ad ogni pretesto, lei viene sansebastianizzato dai nemici, dai giornali che si definiscono indipendenti, dai vignettisti, mea condicio, eccetera. La tua, Fallaci, sembra quasi una difesa più che un'accusa, e infatti in entrambe le paginette dedicate al nostro democraticissimo Presidente del Consiglio, l'unica colpa che gli adduci è quella di essere stato zitto di fronte alle criticabili iniziative di Fini e dei militanti ai Festival dell'Unità in favore del voto agli immigrati. Ma dov'è il tuo essere obiettivo e al di sopra delle parti? Anche questa è un'omissione o un inquinamento delle informazioni? Come mai ricordi solo che la sinistra ha prodotto le Brigate Rosse e parli con nostalgia della destra di un tempo? Mambre fuori avanti, chi li ha prodotti? In realtà, anche in tutto questo tuo secondo libro, l'unica aria che si respira è un disprezzo radicato verso il mondo arabo. Come puoi considerarti obiettiva quando parli con odio di Cassius Clay, Muhammad Ali, ricordando che ruttava mentre ti concedeva un'intervista e notando che non aveva mai letto un libro in vita sua? Stai parlando di un pugile, non di uno scienziato. Credi che un qualsiasi pugile bianco e cattolico sia per definizione un signore composto dalla biblioteca ben fornita? E come chiami la grande enfasi negativa che dai alla raccomandazione 1162 del Parlamento europeo, se non disinformazione? Questa raccomandazione, emessa nel 1991, si intitola «Sul contributo della civiltà islamica alla cultura europea». E nelle pagine del tuo libro viene stroncata, paventandola come la dimostrazione di quanto ci stiamo arrendendo alla conquista musulmana delle nostre magnifiche terre. Ebbene, io mi sono presa la briga di cercarla su internet, di leggerla e di trovare tutti i documenti ad essa relativi e stilati prima e dopo il 1991. È vergognoso che tu non dica che in ognuno di questi documenti ci sono precise condanne della condizione della donna e dell'assenza dei diritti civili nei paesi musulmani e non musulmani. È oltraggioso che tu non scriva che nel documento che affida a una commissione i lavori di riabilitazione della cultura islamica si citi testualmente: il Parlamento europeo attribuisce un'importanza fondamentale al fatto che i paesi di cultura islamica diano avvio ad un processo di autentica secolarizzazione e democratizzazione basato sulla partecipazione, che tenga conto delle aspirazioni e delle richieste della società civile e dei suoi rappresentanti, del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della parità giuridica ed effettiva fra uomini e donne, e assicuri che i diritti delle minoranze linguistiche, religiose ed etniche negli stati islamici siano rispettati allo stesso modo dei diritti dei musulmani, ove questi siano la maggioranza della popolazione. In questa raccomandazione, che dalle pagine del tuo libro sembra demoniaca, si indicano solo alcuni strumenti per eliminare quella vergogna che permea tutta la cultura occidentale, ovvero quella di presumersi l'unica cultura esistente al mondo che vede la propria affermazione solo screditando o omettendo l'informazione sulle altre culture esistenti. Queste omissioni e queste forzature di interpretazione non sono semplici errori, cara Oriana, sono bugie volte a scatenare indiscriminatamente le masse contro i musulmani. Termini il tuo libro dicendo che bisogna ritrovare la forza della ragione, e sono d'accordo con te. Il problema è che non l'ho trovata nel tuo libro, opera dalla quale la ragione è ben lontana, e purtroppo a volte non la trovo nemmeno in persone che considero molto più simili a me e sicuramente dedicate al bene dell'intera umanità più di te e di me. Sono infatti d'accordo con te anche quando dici che troppo spesso siamo eccessivamente critici e critiche rispetto alla nostra cultura di quanto non lo siamo rispetto alla cultura degli altri popoli. C'è un movimento d'opinione nella nostra sinistra che, a partire da un fantomatico rispetto di ogni cultura, arriva quasi a giustificare e comunque a demandare al più o meno libero arbitrio delle persone azioni crudele e insensate come l'infibulazione e l'escissione, o costumi retrogradi e penalizzanti per il corpo delle donne come il burqa e il chador. Ma com'è possibile, mi chiedo, che quelle stesse persone siano così lucide nel criticare il fondamento patriarcale e imperialista della nostra cultura occidentale, la vergogna di fenomeni come la pornografia e lo sfruttamento delle donne nella prostituzione e si arrendano in nome di una società multiculturale ad accettare fenomeni altrettanto devastanti presenti nel mondo islamico. Una vera società multiculturale, se mai esisterà, dovrebbe prevedere una sana contaminazione tra le diverse culture, non una integrazione degli immigrati nella nostra società, che determinerebbe semplicemente l'acquisizione anche di ciò che c'è di sbagliato e di malato nella cultura occidentale. Non una forzatura del percorso democratico di un popolo come quella che i tuoi amici americani sbandierano come vero motivo della guerra in Iraq. Piuttosto una contaminazione che preveda l'unione degli aspetti positivi esistenti nelle diverse culture, una unione che può nascere solo dal rispetto e dalla conoscenza reciproca. Non possiamo negare come ci sentiamo umiliate quando, donne sole, camminiamo nelle strade di un paese musulmano. Non riesco a simulare meno orrore o vergogna di fronte a una donna completamente velata in piena estate nella metropolitana di Milano di quanto non faccia alla vista di alcuni programmi televisivi o di alcune pubblicità affisse nelle nostre strade che umiliano la dignità delle donne. Non si può accettare o tentare di capire i benefici di qualcosa di terribile come la situazione delle donne nei paesi islamici, paesi in cui il femminismo sta nascendo e a stento solo in questi anni. Non possiamo tornare indietro solo per evitare di essere tacciate per razziste. Dobbiamo continuare a combattere quanto opprime le donne nella nostra e nelle altre culture, perché non tutto quello che è diffuso in una nazione o una religione può essere chiamato cultura. Ci sono cose nella nostra e nelle altre civiltà che vanno chiamate con il loro nome, barbarie. Conservati in salute, ma smetti di scrivere, Oriana. Beh, come sempre, gli articoli di Deborah sono veramente da ascoltare dalla prima all'ultima riga. Questa volta ha fatto uno splendido articolo, ma lunghissimo, per cui veramente adesso mettiamo un po' di musica. Pensavo di mettere la stupenda voce di Skin, degli Scancanensis, con il brano per me impronunciabile, io ci provo, ma va bene, dai, riconoscetela così senza il titolo, vi prego, che è difficilissimo. Cause we don't know. Allora, ci sono arrivati un po' di messaggi, finalmente ci sentiamo un pochettino consolate dal fatto che ci riescono a sentire nuovamente dalla Sicilia, da Napoli, da Bari, da Brescia e vai finalmente, sono felicissima di questa cosa. Allora, adesso per il momento ho visto soltanto che ci hanno riscritto. Passiamo per un secondo ad ascoltare un pochettino di musica, così leggo i messaggi e mi organizzo sulle notizie da dare. Allora, giovedì 28 ottobre alla Casa Internazionale della Donna alle ore 18 presso la libreria Zora ed in collaborazione con la casa editrice Il Dito e la Luna ci sarà la presentazione del libro Con Pedigree, romanzo di Lola Vanguardia, edito dal Dito e la Luna. Collana Officine T, parole in corso traduzione a cura di Sara Zanghi e Margherita Giacobino. Presenterà Sara Zanghi insieme all'autrice. E organizza l'evento la libreria che sta all'interno della Casa Internazionale delle Donne, che è Zora Neale Hurston. Stavo confabulando con Pina che sta trascrivendo i messaggi che ci sono arrivati, perché alcuni sono talmente tanto lunghi che stanno su due e addirittura tre messaggi. Un attimo, ci stiamo organizzando. Allora, l'altra notizia che volevo darvi è darvi, va bene, sto dando i numeri. Allora, Università Roma 3, Dipartimento di Filosofia, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Pacifismo e Movimenti Democratici nell'area arabo-islamica e in Marocco, organizza l'incontro con Fatima Marnissi. E intervengono Franca Bimbi, Graziella Bonacchi, Roberto Cipriani e Bianca Pomeranzi. Coordina Francesca Brezzi. Il tutto si svolgerà martedì 9 novembre 2004 alle ore 18 all'Aula Prima Facoltà di Scienze della Formazione, che sta in via Castro Pretorio 20. Navigando un po' in internet, andando a visitare il sito della Casa Internazionale della Donna, troviamo questa recensione di Maria Rosa Cutrufelli rispetto al premio Nobel per la letteratura. che quest'anno è andata ad Elfriede Jelinek. E Maria Rosa scrive: l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura è andata all'austriaca Elfriede Jelinek e ha fatto scalpore essenzialmente per due motivi. Perché la Jelinek è una scrittrice estrema, come hanno detto in molti, e poi perché ben pochi la conoscono sia nel suo paese che altrove. Ma proprio il suo coraggio nello smontare i riti della società maschile e la sua indagine scandalosa sulla sessualità interessò noi di Tutte Storie, che è la rivista di racconti, letture, trame di donne, che nel marzo del 1990 pubblicò in anteprima un suo scritto. E quindi anche noi siamo contente che sia andato questo premio Nobel della letteratura all'austriaca Elfriede Jelinek. Poi, appena ha finito di trascrivere, leggiamo i messaggi che sono arrivati, che con molta gioia abbiamo visto arrivare da tutte le parti d'Italia, e vediamo nel frattempo un'altra notizia, che è quella del premio Nobel per la pace a Wangari Maathai. Come ormai tutte quante saprete, il premio Nobel per la pace 2004 è stato attribuito all'ecologista keniana Wangari Maathai, 64 anni, ed è il secondo anno di seguito che tale riconoscimento va ad una donna. L'anno scorso fu consegnato all'avvocata iraniana Shirin Ebadi, che tra l'altro è stata anche ospite della Casa Internazionale delle Donne lo scorso anno in un incontro senza formalità e diretto e di diretto confronto politico fra le donne. Sei pronta, Pina, a leggere i messaggi? Io no, perché ti devo accendere ancora il microfono. Vai, prova adesso. Ecco. Oh, vicino al microfono, sono grazie. Sono pronta, va bene. Allora parto proprio da Laura. Sì. Salve ragazze, che peccato aver dimenticato l'orario cambiato. Sicuramente una puntata bellissima, l'ascolterò in replica, brave. Mi dispiace Laura che tu sia dimenticata. Vicino al microfono, sennò fischia. Mi dispiace Laura che tu abbia dimenticato la data, va bene, fortuna. Non la data, l'orario. Perché ricordiamo che abbiamo avuto una modificazione oraria. Sì, fino sì, a tutto sì. Il mese di dicembre andiamo in onda dalle 8:30 alle 9:30. E quindi vedrai che insomma. Però puoi ascoltare la replica, giusto? Che andrà martedì prossimo, così la sente tutta da capo. Caterina non perde mai il vizio di accavallare la sua voce alla mia. Certo. Uno di questi giorni non so che le farò, vabbè, lasciamo. Muoviti che è tardi. E invece dalla lontana Sicilia arriva: ciao a voi del CLR Pineccate. Tura presente finalmente stasera, riesco a sentirvi. Bacioni siculi, Luis. PS, mando i messaggi dall'AstWeb. Poi ci scrive ancora Roberta Micheletto, che è stata anche ospite di una delle nostre trasmissioni. In bocca al lupo per la nuova stagione, un abbraccio a tutte. Ciao Roberta e grazie. Poi ci riscrive ancora Tura, che ci dice una cosa bellissima. Dice: voglio venire a trovarvi anch'io presto. E perché noi ti aspettiamo a braccia aperte. Veramente, con sarai tutto l'affetto. Sarai nostra ospite e quindi ci farà piacere, insomma, perché tutte le nostre ascoltatrici sono poi loro che in qualche modo ci danno la voglia, la forza e l'energia sufficienti per andare avanti. E anche le motivazioni giuste. Allora, Allora io, per non perdere le buone abitudini, vi ricordo che state ascoltando È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 20:30, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì, anche se in questo periodo è ancora in fase di riorganizzazione. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. E quindi siamo ben contente che siano tornate a farci compagnia le donne di Caserta, di Bari, di Milano, di Catania, di Bologna e di Brescia, che fino a poco tempo fa ci mandavano sempre dei messaggini molto molto molto carini. E speriamo che anche da Napoli si siano risolti alcuni piccoli problemi che non permettevano ad una nostra potenziale ascoltatrice di sentirci. Ci ha chiamato infatti e anche scritto per avere ulteriori segnalazioni su come si possa sentire la nostra trasmissione via internet. Bene, allora a questo punto, giovane Lella di Napoli, spero che tu sia riuscita a sentire le nostre voci. Se ci sei, mandaci un segnale. Ricordo il numero degli SMS, che è 338-4146-682. Ma potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 21:30, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni mercoledì a partire dalle ore 21. Al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax, segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Ricordo ancora il numero per gli SMS, è 338-4146-682. E così come ha fatto Deborah, potete anche voi mandarci i vostri contributi scrivendo all'email contatti@clrbp.it. E poi ricordo per le distratte che fino a tutto il mese di dicembre la nostra trasmissione avrà il seguente orario: 20:30 e terminerà 21:30. Adesso, per chiudere questa trasmissione, ascoltiamoci insieme una canzone alla quale io sono molto legata, perché è stata, pensate, la prima canzone che abbiamo trasmesso nello spazio della musica lesbica indipendente durante la prima trasmissione che abbiamo fatto da questi microfoni, ed era il lontano dicembre 1997. È cantata dalle Kick La Luna. Le Kick La Luna sono un gruppo tedesco composto da Jutta Keller alle chitarre, Han Breich alle percussioni, Ulrich Pfeiffer al basso e alle percussioni, ed Elke Wotz, voce principale e più interessante del gruppo. Si sono esibite in un concerto che si è tenuto a Bologna durante la quinta edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria e, a detta delle fortunate che hanno avuto il piacere e il privilegio di ascoltarle, sono veramente strepitose. Le ascolteremo anche altre volte, le abbiamo ascoltate in tante trasmissioni, perché veramente sono bravissime, a me piacciono molto. Il brano che tra poco ascolteremo è tratto dal loro primo CD, che si intitola Dark Street. È in pratica una condanna della cultura patriarcale imperante che impedisce alle donne di godere della bellezza della notte passeggiando libere per le strade della propria città. Il timore nasce in primo luogo in noi stesse, condizionata dall'atteggiamento predatorio maschile. La speranza è nel riappropriarci di noi stesse, ritrovando il coraggio di voltarci e di guardare dritto negli occhi il nostro inseguitore. Speriamo che vi piacciano almeno quanto sono piaciuti a noi, e per farcelo sapere ricordatevi il nostro telefono per i messaggi, che è 338-4146-682. Allora adesso le Kick la Luna con il brano Dark Street. Why the spines instead of love? queste erano le Kick la Luna, sono o non sono bravissime? Allora, sulle note di questa canzone delle Kick la Luna, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. È arrivato un nuovo messaggio, se Pina ha voglia di leggerlo, perché vedo che sta ridendo, quindi deve essere carino. Allora, prima della sigla finale leggiamo l'ultimo messaggio che è arrivato. Vai Pina. Ciao Francesca, mi ha fatto molto piacere leggere il tuo messaggio, quindi lo leggo con soddisfazione. Allora, e sono contenta soprattutto che sei riuscita finalmente a metterti in contatto con la radio. Beh, vuol dire che sentirai tutto il resto della trasmissione, visto che mi dice che da pochi minuti sono riuscita a mettermi in contatto con una voi. Vi ascolto finalmente. Siete l'espressione del nostro orgoglio lesbico. Continuate così. Era quella che ci aveva scritto da Napoli. Sì. Da Napoli, vai. Grande. Quindi sono contenta che tu finalmente sia riuscita a metterti in contatto. È un altro filo diretto con noi. Vai, ciao Francesco. Per il momento ti abbracciamo e speriamo di vederti presto, ok? Però aspettate, perché credo che sia arrivato qualche altro messaggio. Rimanete in linea ancora un attimo con noi. Intanto, mentre Pina legge, vi ricordo a Francesca che la settimana prossima, a partire dalle 8:30, anzi tanti, dalle 20:30, andrà in replica questa trasmissione che, come ricorderete, perché è già stato detto più di una volta, fino al mese di dicembre andrà in onda con l'anticipazione di 30 minuti, quindi non più alle 9 ma alle 8:30. E quindi fino a tutto il mese di dicembre le nostre trasmissioni cominceranno 8:30. C'è Pina che è intenta a leggere i messaggi, non so quanti ne siano arrivati. Allora, è sempre ancora la nostra carissima ascoltatrice Sicula, la quale dice una cosa, adesso io ve la leggo e mi dovete dare il tempo materiale però poi di andare indietro, perché sono... Il messaggio è su tre messaggi diversi e lei ci dà un altro spunto di riflessione, ci dice: ma ci pensate che senza arabi non avremmo i numeri? Come avrebbe fatto la Fallaci per contare quante copie hanno venduto i suoi libri? E aspettate che mi collego col secondo. Grande, non ci avevo pensato, è vero. E quanti dolci siculi non esisterebbero, perché si tace sul muro costruito dagli israeliani? La vita di un palestinese in fondo non vale quando la terra o... aspettate un attimo... o il petrolio. Brava. Grazie Francesca, sono... No, non è Francesca, scusa, è Luisa, Luisa dalla Sicilia. Talmente tanto contenta che Francesca riesce a sentirci, chiamo tutte Francesca io questa sera. Quindi... sapevamo già che la Sicilia era una terra molto ricca, questa è un'ulteriore conferma. Va bene, allora noi abbiamo sforato abbondantemente il tempo a nostra disposizione, quindi facciamo partire la sigla. Un saluto a tutte, ricordatevi che la settimana prossima andrà la replica di questa trasmissione alle 8:30. Ciao a tutte. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio...